Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 7 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Il primo giorno di semilibertà di Pietro Maso è stato, come era prevedibile, sotto i riflettori. Maso, il 17 aprile del 91, massacrò i genitori insieme a tre amici, uno dei delitti più efferati e indimenticabili del nostro paese. Condannato a 30 anni e 2 mesi, grazie anche al vizio parziale di mente riconosciuto durante il processo, oggi ha ottenuto la semilibertà dopo 17 anni di carcere scontati. Esce al mattino dal carcere, va a lavorare, la sera rientra in carcere. È un uomo cambiato, un detenuto modello, ha imboccato un percorso di fede. Questo sostanzialmente c'è scritto nell'ordinanza che gli ha concesso la semilibertà, ordinanza della quale bisogna dire la Procura della Repubblica di Milano intende fare ricorso in appello contro questa ordinanza. Inevitabili le polemiche, sono riscoppiate. L'Italia è il paese delle scarcerazioni facili? Della pena non scontata mai fino in fondo, oppure, visto che la pena tende e deve tendere al recupero, e su questo non ci devono essere dubbi, sono polemiche pretestuose, polemiche sbagliate, bisogna dare a tutti una seconda possibilità. Coincidenza vuole che proprio ieri, tra l'altro, quando infiammavano le polemiche sulla vicenda Maso, si è sparsa un'altra notizia. Ricordate un altro delitto sicuramente che ha sconvolto l'Italia? Giugno 2000, Suor Maria Laura Mainetti, uccisa da tre ragazze a Chiavenna, in Valtellina. Ambra, Milena, Veronica. Sono sostanzialmente, Ambra è in regime di semilibertà, Milena è nella comunità di Donmazzi, Veronica è una ragazza nuova, diversa, completamente libera di fatto. E tra l'altro ieri si è sparsa la notizia, è anche fidanzata, è incinta, aspetta un bambino, una nuova donna insomma. Si può essere un'altra persona dopo i delitti efferati? La giusta pena, di questo parliamo oggi. Voglio salutare i miei ospiti, a cominciare dal sindaco di Montecchia di Crosara, Giuseppe Cavazza. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Il luogo dove avvenne ovviamente il delitto Maso. Allora lei era vice sindaco. Voglio salutare anche Paola Caio, che presiede l'Associazione Italiana Vittime della Violenza. In questi giorni hanno manifestato davanti al carcere di San Vittore. Settimana prossima il ministro Alfano li riceverà. Buongiorno signora Caio, benvenuta. Buongiorno a voi. Così come saluto la professoressa Paola Severino, vicerettore della LUIS, dove insegna diritto penale. Benvenuta professoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. E un cronista di Panorama, Giacomo Amadori, che da anni si occupa di cronaca nera. Tra l'altro io ho citato appositamente il caso Suor Maria Laura Mainetti. Io ricordo un'intervista, ecco, gli aggettivi poi sono sempre sbagliati, intensa, la definisco così, fatta proprio a Veronica, una delle tre autrici di quel delitto, donna che si dice ora profondamente cambiata, una nuova identità, una nuova vita. Giacomo Amadori, ciao, benvenuto, buongiorno. Ciao a te, una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Le 9 e 13 minuti dalla vicenda di Pietro Maso, insomma le polemiche ancora su il paese delle scarcerazioni facili, come dice qualcuno. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, gli sms al 349-238-6666. Giuseppe Cavazza, come detto, è il sindaco di Montecchia di Crosara, Verona, il paese di quel delitto. Allora lei era vice sindaco, dunque inevitabile ricordare insomma che lei ricorda tutto di quelle di quei giorni, come ricorda molto anche l'Italia. Lei ha avuto un atteggiamento molto equilibrato, mi sembra di poter dire, in questi giorni, sostanzialmente a dire, a suo modo di vedere, come rappresentante anche di quella comunità, le pene vanno scontate fino in fondo, è così? Il mio pensiero è questo, no? Perché sicuramente con un fatto del genere, che credo che sia un fatto eclatante, no? Almeno per il nostro paese, però se la pena è equiparata al tempo di recupero della persona, io credo che devono essere scontati tutti gli anni che uno ha ricevuto. Se poi, per carità, i giudici hanno ritenuto che, però non entro in merito. Questo vuol anche dire che chi 17 anni fa ha pensato di dare 30 anni vuol dire che avevano valutato bene la situazione, il tempo di recupero di Pietro, insomma, se adesso dopo 17 hanno valutato qualcosa di diverso, non so, qualcuno potrebbe aver sbagliato, insomma. C'è da dire, Pietro Mazzo non è libero, è un regime appunto di semilibertà alternativo al carcere, una pena alternativa. Non crede che tendendo la pena al recupero si debba, in questo percorso insomma di recupero, dargli anche questa possibilità? Ma credo che nessuno è un forcaiolo, in prima persona ci mancherebbe altro, però io credo che 30 anni portarli a 17, che poi sappiamo tutti che dopo un anno di semilibertà può essere trasferito in qualche comunità, in qualche istituto, via dicendo, io credo che sia troppo, insomma, forse è venuto questo dopo 20-25 anni, potrebbe avere anche un senso, ma il 50% della pena io credo che sia un attimo, per carità, senza volere poi giudicare chi ha giudicato, però un attimo fuori posto, diciamo, ecco. Lei ha già detto sostanzialmente sempre con l'equilibrio che io ho riconosciuto in queste dichiarazioni, in questi giorni, però insomma qui Pietro Mazzo forse è meglio che non ritorni. Io credo che sia ancora prematuro questo, l'intelligenza di Pietro io credo che lo porti a meditare su questa cosa e prima di tornare a Montechia che passi qualche altro momento, insomma, qualche altro tempo, poi come si dice qui da noi, il tempo matura le cose, no? Io credo che sia tanto intelligente da non pensare di tornare in questi giorni, in questi mesi, insomma, lasciare trascorrere un attimo più di tempo, perché non credo che la nostra gente, la mia gente, per carità, non tutti, ma che qualcuno magari non sia pronto a questo, ecco. Io vorrei andare per un attimo da Paola Caio, che come ho detto ho presentato, presidente dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza, un'associazione che lei presiede e che lei ha fondato. La caratteristica purtroppo delle persone che fanno parte di questa associazione è tutte di avere vissuto un'esperienza personale ovviamente molto drammatica. Lei, signora Caio, aveva una figlia, Monica. Il 14 ottobre del 2005 cosa è successo? Quella data è una data orribile. Mia figlia è stata massacrata di botte, è stata uccisa con pugni, calci, gli ha spaccato bottiglie in testa, bottiglie piene di birra, premetto che sono piuttosto consistenti, gli ha scagliato addosso le sedie, l'ha bastonata, in poche parole lui l'ha massacrato, ha massacrato il corpo di mia figlia. Perché lei in questi giorni con altre persone di questa associazione ha manifestato facendo anche uno sciopero della fame davanti al carcere di San Vittore a Milano? Sciopero che so poi è rientrato perché il ministro Alfano ha detto vi riceverà settimana prossima, ma perché manifestare? Abbiamo manifestato perché innanzitutto noi avevamo già il dolore della perdita delle nostre figlie e sentire che ci sono queste scarcerazioni facili e questi assassini vengono premiati anticipatamente, per noi è una grande offesa come madri, cioè noi non l'accettiamo questo, non vogliamo che siano fuori dal carcere anzitempo, se è stato deciso che deve scontare 30 anni di carcere, li devono scontare fino in fondo, io non capisco come sia possibile dimezzare una pena. Non è possibile e quindi noi abbiamo deciso di fare questo sciopero della fame perché volevamo parlare col ministro Angelino Alfano e ci siamo riusciti, abbiamo iniziato lo sciopero della fame ad oltranza, se noi non fossimo state ricevute dal ministro e poi grazie anche all'onorevole La Santanchè, la Daniela Santanchè che ha contattato il ministro. Lui è stato così gentile, ci ha fissato l'appuntamento per la settimana prossima e da qui abbiamo smesso lo sciopero. Senta, signora, la persona che ha ucciso sua figlia è stata condannata, ha fatto il rito abbreviato, credo, e ha ricevuto quanto di condanna? Sì, lui ha chiesto il rito abbreviato, poi è stato condannato perché l'omicidio era preterintenzionale. Cioè, preterintenzionale significa che uno non ha l'intenzione di uccidere, sì, giusto? Oltre le intenzioni, certo. Io mi chiedo se dopo aver massacrato di botte una donna, l'ha distrutta perché gli ha spaccato 7 denti, gli ha spaccato la mandibola, 4 costole e in più gli ha dato talmente tanti calci da procurare una ferita alla milza con fuoriuscita di sangue, quindi Monica è morta dissanguata. A questo assassino sono stati dati 14 anni. Lui ha già beneficiato dell'indulto, 3 anni di indulto. Quindi fanno 11. Ecco, quindi, e poi ha fatto un ricorso in appello e sono stato concessi 2 anni di sconto. Tra quanto, secondo i calcoli, immagino, dei suoi avvocati, potrà uscire dal carcere? Tra breve. Lui potrà uscire tra 4 anni, 4 anni e mezzo, se non prima. Quindi i 14 anni che erano stati dati 3 anni fa non contano nulla. Rimanga con noi, signora. Professoressa Paola Severino, è un paese, lo so che insomma non è facile, soprattutto dopo una storia del genere, signora Paola Caio, o anche della vicenda Maso, però ci aiuti a capire dal punto di vista un po' più tecnico. È il paese, l'Italia, delle scarcerazioni facili, oppure ci sono invece dei percorsi, dei tecnicismi che sono garanzia di una buona pena? Ma io credo che chi mi ha preceduto abbia già posto in evidenza i termini critici del problema. Io volentieri aiuto a ricostruire quel che è accaduto, perché credo che vada spiegato cosa c'è nella nostra legge. E poi, semmai, occorre formulare delle serie proposte di modifica. Cosa è accaduto e cosa deriva dalla nostra legge? Il primo quesito che io mi porrei è come mai Maso è stato condannato a 30 anni. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, la condanna a 30 anni è stata data in primo grado, confermata in appello e poi confermata dalla Cassazione. Ora consideriamo che le aggravanti c'erano tutte, perché c'era l'aggravante dell'aver ucciso i genitori, i motivi abietti, l'efferatezza del crimine, il comportamento dopo il delitto. E allora come mai, anziché l'ergastolo, è stata applicata una pena di 30 anni? È stato riconosciuto, come lei diceva in esordio, il vizio parziale di mente, e questo consente naturalmente un abbassamento notevole di pena. Perché il nostro codice, ma non solo il nostro codice, la nostra Costituzione, quindi stiamo ben attenti perché la Costituzione è molto più difficilmente modificabile, punta sul sistema cosiddetto del doppio binario, bisogna punire ma bisogna anche rieducare. E poiché una persona parzialmente malata può essere curata e quindi rieducata, l'aspetto rieducativo in questi casi prevale su quello punitivo. E questo è il primo tema, ed è un tema sul quale mi sembra difficile parlare di possibili riforme, proprio perché c'è il dato costituzionale. Mentre mi sembra che sia un po' il sistema della semilibertà e dei termini che esso comporta a poter essere messo in discussione. L'istituto della semilibertà è di derivazione statunitense, ma come sempre quando si esporta un istituto dal paese di origine e lo si applica in un'altra realtà normativa, forse il sistema poi non funziona così bene. Le condanne negli Stati Uniti hanno delle durate estremamente più lunghe e dunque la semilibertà diventa una via d'uscita rispetto alla morte in carcere. Certo. Nel nostro sistema la rieducazione assume una dimensione prevalente e quindi l'istituto va applicato con grande cautela. E ora la norma dice che se si tiene un comportamento corretto in carcere e se non si è più socialmente pericolosi, scontata la metà della pena, si può godere di questo regime che, come pure lei giustamente diceva, non è di libertà. No, infatti. Si ritorna. Infatti ricordiamo, voglio dire, giusto perché Maso dorme in carcere, esce dal carcere, va a lavorare e rientra in carcere, questo è importante da... Ma secondo lei c'è, voglio dire, non è un giudizio applicabile a tutti i casi, ogni singolo caso andrebbe esaminato, ma c'è una applicazione esagerata delle misure alternative che poi fanno dire, insomma, ma in Italia la pena non si sconta mai, oppure invece no, invece c'è una durezza? Ma io devo dire che il compito del giudice di sorveglianza è estremamente difficile, perché giudicare se una persona si sia o meno redenta o rieducata è un compito estremamente complesso. E certamente i contrasti ci sono, basti ricordare che in questo caso, mentre il giudice di sorveglianza ha ritenuto di poter applicare la misura, la Procura Generale ha ricorso contro questa decisione. Io vorrei leggere stralci dell'intervista che nell'aprile del 2008 di quest'anno Giacomo Amadori su Panorama ha fatto a Veronica, che voglio ricordare oggi vive con un altro nome, un'altra identità, è una delle tre assassine di Suor Maria Laura Mainetti, è completamente libera. Riguardo al carcere, come ha fatto a trovarsi così bene, chiede Amadori, in carcere? Finalmente avevo delle regole, qualcuno che mi ascoltava, si preoccupava di me, anche se ero diversa, mi sentivo protetta in un ambiente ovattato. Qual è la cosa più brutta della reclusione? Che non hai spazi. E com'è stato lasciare la prigione? Due stati fa mi è piombato addosso l'indulto e mi sono chiesta, e adesso che faccio? All'inizio non riuscivo neppure ad attraversare la strada, per un periodo ho insegnato a disegnare ai bambini di una scuola materna, poi i genitori, dopo aver scoperto da un giornale chi ero, mi hanno fatto mandare via. Alla fine questa storia come l'ha segnata? Mi sento sempre in colpa quando lo dico, ma quella tragedia mi ha salvato dalla mia adolescenza. Giacomo Amadori, è possibile, tu che l'hai conosciuta, tu che l'hai incontrata, Veronica, è possibile essere un'altra donna, un altro uomo dopo un delitto efferato? Io non sono uno psicologo né uno psichiatra, però con il mio lavoro ho conosciuto e incontrato tante persone che hanno ucciso e mi sono reso conto che in molti casi c'è proprio la sofferenza di chi non riesce, non sa come chiedere scusa, come farsi perdonare, perché vi assicuro, per quella che è la mia esperienza, l'ergastolo c'è per queste persone. C'è il continuo rimorso, c'è il sapere di essere sempre al centro d'attenzione, di essere braccati, di essere cercati a ogni avvenimento, come per esempio la scarcerazione di Maso. Noi cronisti andiamo a cercare chi ha avuto già la semilibertà per andare a cercarlo, per andare a intervistarlo. Vi assicuro che anche chi esce non vivrà più come prima la propria vita. Quindi io ho visto tanta sofferenza, tanta ansia, tanta paura e credo che bisognerebbe davvero contestualizzare, prendere caso per caso, perché ricordiamoci, e di questo magari si parla poco, che ci sono persone, io sono contrario alla contabilità degli anni di carcere per quello che riguarda la riabilitazione, ci sono persone che hanno fatto ben più di 20 anni, tipo Angelo Izzo, che poi escono e riuccidono, oppure c'è questa bellissima inchiesta dei giorni scorsi sulla Stampa di Massimo Numa che racconta di Maurizio Minghella, che era un detenuto modello, è stato quasi 20 anni in carcere, è uscito e sembra che abbia ucciso altre 10 persone. Però di questi non si parla, come si è parlato pochissimo per esempio di Marco Furlan, no? Che è uscito dopo 13 anni, dopo che era evaso, era stato latitante e aveva 15 persone sulla coscienza. Evidentemente ci sono dei casi che, assomigliando di più alle nostre famiglie, no? Portandoci di più su quel palcoscenico, su quel teatro tragico, ci rendono più partecipi. Per cui parliamo moltissimo di Maso, parliamo moltissimo di queste tre adolescenti che potrebbero essere le figlie di chiunque di noi e magari ci dimentichiamo di altri casi. Ribadisco, per me ci sono delle persone che sicuramente l'ergastolo lo vivono anche fuori dal carcere. Io voglio ricordare un dato prima di dare il primo ascoltatore, poi un attimo di pubblicità. È uscito sul Sole 24 Ore proprio alla luce del caso di Pietro Maso. 4 condannati su 1000 commettono nuovi reati mentre scontano una pena lontano dal carcere, perché sottoposti per esempio all'affidamento in prova o al regime di semilibertà. Un livello di recidiva molto basso, ripeto, 4 su 1000. Il primo ascoltatore è all'800240024. Pino, buongiorno. Buongiorno. Da dove ci chiama Pino? Io la chiamo dalla provincia di Milano, dica. Sono un ex detenuto, dica. Ho scontato 8 anni di carcere ininterrottamente. Spenga la radio. Fatto. Ininterrottamente, ero stata condannata a 14 anni per un reato grave, narcotraffico, Al di là di questo, fortunatamente esiste la cosiddetta e tanto vituperata legge Gozzini, perché io sono entrato che avevo quasi 40 anni, se avrei scontato tutta la pena come i fautori che scontino la pena per intero, salvo quando cascano in galera i loro figli, poi li cambiano idea. Comunque, al di là di questo, io sarei uscito a 54 anni, adesso io mi sono rifatto una vita, lavoro, ho pagato il mio debito, ho capito di aver sbagliato, mi sono rifatto una vita. Se uscivo a 54 anni, come mi inserivo nel mercato del lavoro? Cosa facevo? O il mendicante o tornavo a fare il delinquente. Allora, in Italia, quello che non si dice e non dite voi giornalisti, non dico lei ovviamente, personalmente, che tendete sempre a spaventare la gente, che abbiamo le pene più alte d'Europa. In Spagna massimo è la condanna è 20 anni per un omicidio, in Svizzera altrettanto. Quindi intervistare la signora che poverina ha avuto quella disgrazia e vuol dire cercare di portare l'Italia su un metodo di giustizia in iraniana. No, non dica così. Come vede Pino, lei ha spazio, però non dica della signora che la sta ascoltando, che dalla quale torniamo, voglio dire, massimo rispetto. La signora ha avuto una figlia uccisa nel modo in cui ci ha raccontato. Ho capito, quindi non si può delegare il sentimento di giustizia. No, guardi, non c'è delegare nessun sentimento di giustizia. Però, Pino, mi scusi, lei ci ha detto ha fatto 8 anni di carcere, ha fatto il suo percorso, è una persona, ci ha detto, nuova, ha pagato il suo debito e quindi ci ha dimostrato con la sua esperienza dire che le pene alternative al carcere, gli sconti di pena, i regimi di semilibertà, servono e servono in modo positivo. Si fermi lì, mi piace così, non aggiunga nessun giudizio riguardo alla signora Caio. Io tra l'altro saluto la professoressa Severino che ci ha lasciato. Siamo con Giacomo Amadori, cronista di Panorama, Giuseppe Cavazza, sindaco di Montecchieri Crosara, il paese dove avvenne il delitto Maso, e la signora Paola Caio, presidente dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza. Signora Caio, volevo giusto darle la parola, prima devo fare appunto questa precisazione e faccio questa domanda. Io traduco l'osservazione che ci ha fatto Pino, l'ascoltatore, sul fatto che intervistare lei, ospitare lei, voglia far passare anche l'idea un po' di scavare nella pancia del paese e nel voler dare spazio a una sorta di giustizia che si può tramutare in un giustizialismo, in una voglia di vendetta. Allora, io devo contestare le parole del signor Pino. Innanzitutto io sono qui, sono una sola, ma io porto la testimonianza di centinaia di persone e di mamme che sono state colpite da una tragedia simile alla mia. Il signore era stato incarcerato perché era trafficante di droga. Complimenti, signore. Lei era un portatore di morte e questo lo deve sapere. Però mi scusi, signora, lo so che non è facile, però voglio dire, poi adesso il signor Pino non c'è, ci ha salutato, voglio dire, ha fatto il suo intervento da ascoltatore, ma sicuramente sta ascoltando in radio. Il signor Pino ha sbagliato, lo ha detto, ha scontato la sua pena, è un uomo nuovo e dice: io, grazie anche ai regimi alternativi al carcere, sono potuto uscire un po' prima, adesso sono una persona diversa. Si può sbagliare nella vita, non sto dicendo come il caso della persona che ha ammazzato suo figlio, ma come nel caso di Pino, ha sbagliato, ha scontato la sua pena. Usciamo da questa polemica personale, non è facile, lo so signora, le chiedo però, lei che cosa chiede dalla giustizia? Lei ha animata anche da uno spirito, glielo chiedo brutalmente, di vendetta, sì, di giustizialismo. Noi vogliamo giustizia, non vogliamo vendetta. Che la giustizia faccia giustizia, che alzi il capo perché è caduta troppo in basso. Io ho portato la mia testimonianza, però io vi potrei raccontare la storia, ad esempio, di Virginia Ferreoli, ragazza 17enne, uccisa con 50 coltellate. Potrei portarvi la storia di Monica, una ragazza uccisa, tranciata alla testa e data a fuoco. Jennifer Zacconi, seppellita viva, era incinta di 9 mesi. Ma pensiamo a quanta bestialità c'è dietro questi delitti. E il signor Pino... Si fermi lì, guardi, si fermi lì. Marco, Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, allo studio e agli ospiti studio. Dica. Sono Massimo di Milano. Volevo dire semplicemente che in Italia la giustizia mi sembra un po' un supermercato con sconti al 50%. Si sente in diritto di ammazzare delle persone, poi si va in galera, si fa i bravi per un periodo di tempo, poi la giustizia vede, provvede, ti dà lo sconto ed esci. Io credo che comunque l'omicidio, piccolo, grosso, comunque voglia sia comunque una cosa che ti porti dentro per tutta la vita, non te lo togli più. Omicidi eccellenti, tragedie, Tommy di Parma, Cogne e tanti altri, le ville nel Triveneto, gente che viene massacrata gratuitamente per pochi spiccioli o per il puro divertimento di ammazzare una persona. Non esiste, veramente siamo... Credo che leggendo i libri di storia, se andiamo indietro nel tempo, credo che abbiano fatto meno danni. Va bene, no, grazie Massimo per il suo intervento. Vorrei andare un attimo da Giacomo Amadori e Giuseppe Cavazza, tornare dal sindaco. Giacomo Amadori, vuoi anche tu dare una risposta? So che tu appunto di casi ne hai seguiti, ma anche Erika e Omar, anche il caso appunto di Cogne, tanti ne hai seguiti e ne segui di Cronaca Nera, questo è il tuo lavoro e come detto hai incontrato, hai guardato negli occhi le persone che si sono macchiate di delitti atroci. Vuoi dire qualcosa anche tu? Sì, certamente, perché mi aggancio alla discussione che c'è stata prima. Io sono fiero di vivere in un continente come il nostro, dove non c'è la pena di morte e dove le radici sono quelle cristiane, quindi quelle del perdono. Su questo sfondi con me una porta aperta, insomma, una delle pochissime cose sulle quali la barra è drittissima, il no alla pena di morte sempre e comunque. Però nello stesso tempo io in questi giorni ho visto, per esempio, quando è uscita la notizia che Veronica è incinta, ho visto su internet italiani, cioè persone come me, che chiedevano che lei morisse durante il parto, che abortisse, e qui ho capito comunque che non tutti la pensano come me. Credo che ci siano delle, tra virgolette, pene alternative, per esempio queste ragazze che io ho conosciuto, in questo caso Veronica, lei ha perso la madre che si è ammalata di tumore dopo poco dal fatto e è portata avanti una malattia lunghissima e dolorosissima, è durata 4 anni, la mamma e il papà di Milena è morto anche lui dopo poco di tumore. Sono tragedie che colpiscono non solo chi è la vittima, ma anche chi le ha compiute e anche chi sta intorno, i familiari di chi le ha compiute. Questo va tenuto presente prima di dare dei giudizi. Sono famiglie distrutte. Io vorrei per un attimo tornare al sindaco di Montechieri Crosara, sindaco Cavazza. Senta, secondo lei, io ricordo all'epoca ci fu la famosa perizia di Vittorino Andreoli, professor Andreoli, ci fu anche un libro di Bettin che sostanzialmente portò avanti anche questa tesi, ma in fondo fu il contesto sociale nel quale maturò il delitto, il contesto sociale del paese che spinse Pietro Maso con i suoi amici a compiere questo atroce delitto. Una tesi ovviamente che da voi è sempre stata rigettata con anche sdegno. Il paese, la comunità si è riuscita a svincolare da quel lontano 1991, da quel giorno? Ma io credo che tutte le perizie, tutti i libri che sono stati scritti su Montechia, giustamente come ha detto lei, la nostra popolazione, ma non di Montechia, io credo di tutta la provincia, di tutto il nord-est, l'ha ripudiata fino in fondo. Credo che allora si sono dette tante cose, ci sono stati anche dei colloqui con Andreoli e compagnia, però detto questo io credo che il paese sia totalmente diverso da come è stato descritto. Sono passati 17 anni, tante cose sì, anche se sono dimenticate, non è che il paese viva sul timbro di Pietro Maso, ci mancherebbe altro, il paese ha il suo corso, la sua vita, il suo sviluppo, la sua economia, e è successo a Montechia, poteva succedere tranquillamente a Torino, Milano, Napoli, insomma, su questo io credo che bisogna essere sicuramente certi e sicuramente tranquilli, non è che noi qui pensiamo tutti i giorni a quello che è successo 17 anni fa, insomma. Ecco. Su questo non c'è dubbio. Marco da Verona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io mi ricollego all'intervento che il sindaco Cavazza ha fatto precedentemente, perché è proprio, diciamo così, è sintomatico di quello che in realtà il carcere è per il nostro paese, ovvero la comunità nella quale Maso ha compiuto, che Maso ha ferito e nella quale Maso ha compiuto il suo gesto, è una comunità che ripudiandolo ancora, non ritenendosi ancora pronta, come lei giustamente ha sottolineato, non fa altro che sopperire a quello che è il limite che invece la legalità si è posta. La legalità che ha scelto di dimezzare la pena va contro quello che sono le esigenze sociali che la nostra comunità ha. La nostra comunità sceglie di non punire con la pena di morte, ma comunque di incarcerare come pena per un delitto. Perché? Perché probabilmente c'è l'esigenza sia di dare una punizione, e sicuramente la limitazione della libertà è una punizione esemplare, sì, ma anche di difendersi. Ma certo, ma guardi, c'è la scriveva Beccaria, la pena è sicuramente punizione, espiazione, recupero, ma anche tutela per la comunità dove è stato compiuto un delitto. Su questo non ci sono dubbi, Marco. Mi lascia andare anche da Alberto, da Reggio Emilia, poi ho il traffico. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io volevo entrare in trasmissione e fare questa domanda. Credo che qua in Italia, purtroppo, non so se le pene sono leggermente, diciamo così, troppo leggere. E credo che quando si parla di diritti di questo genere, credo che sarebbe necessario molto più carcere. Guardi, non so se sono non è tanto la questione se sono leggere dal punto di vista del codice. Il tema forse è che ci sono e se vengono scontate fino in fondo. Forse non è tanto. Pino, prima l'ascoltatore, ci ha detto che abbiamo le pene tra le più dure dell'Europa. Questa almeno nel codice penale. Dopodiché, insomma, sappiamo che vengono scontate, a volte no, stendiamo un velo pietoso sulla vicenda dell'indulto. Oggi avrebbe voglia di chiedere scusa, chiedeva Giacomo Amadori di Panorama nell'aprile a Veronica, una delle tre assassine di Suor Maria Laura Mainetti. Ricordiamo, oggi totalmente libera Veronica, un'altra identità, una nuova vita. Oggi avrebbe voglia di chiedere scusa? È una domanda stupida, preferisco non rispondere. Vorrebbe non aver mai ucciso Suor Maria Laura? Penso che avrei voluto essere arrestata per un altro motivo, magari con 300 kg di cocaina. Quel percorso lo dovevo fare per salvarmi, ma avrei voluto non dover uccidere. E anche se non è credente, il quinto comandamento dice non uccidere. Lei quali altri non ha rispettato? Tutti, li ho infranti tutti. E ora, lo ripeto, sono diventata una persona migliore e avrei da chiedere una cosa io adesso, a voi giornalisti. Posso? Prego. Dimenticatemi, mi sono fatta raggiungere per non essere più inseguita. Non rimandatemi all'inferno. È in questo, Giacomo Amadori, quella pena, tra virgolette, che secondo te chi compie questi delitti, una sorta di stigma, si deve portare per tutta la vita? Comunque una sorta di quell'ergastolo a cui facevi riferimento, l'ergastolo da parte dell'opinione pubblica? È impossibile liberarsi di questo che hai chiamato stigma, l'ho capito, io credo di essere una persona fortunata perché ho potuto guardarli negli occhi questi assassini e mi sono reso conto che in molti casi, poi ci sono dei casi in cui noi non abbiamo più il controllo come quelli che ho citato all'inizio e in cui persone come me non possono neanche più capire e provare a comprendere, ma nel caso per esempio di Veronica vedi proprio la paura, l'ansia. Lei adesso è una ragazza equilibrata, una gran lavoratrice, eppure questo marchio non la seguirà per sempre. Lei ce l'ha per sempre questo stigma addosso. Se mi permetti, volevo rispondere, mi piacerebbe intervenire sulla questione della comunità, no? Che vuole espellere. Che non riesce a riaccettare il proprio corpo maso. Io vorrei ricordare come Veronica faceva parte di una comunità in cui lei dice sentiva questa noia terribile che poi l'ha portata, questo vuoto che l'ha portata a uccidere. Cioè, secondo me ci sono delle comunità che dovrebbero farsi un esame di coscienza. Parliamo di Verona in questo caso, no? È la comunità dove è nato Marco Furlan, che faceva pulizia, no? con Ludwig, Barboni, omosessuali, prostitute, eppure a maggio, andando molto più vicino, questo gruppo di ragazzotti che considera Verona città di classe ha ucciso a calci un ragazzo dei centri sociali ed è la stessa provincia in cui Pietro Maso per denaro uccise i genitori 17 anni fa. Quindi secondo me questi omicidi, questi fatti, come per la Val Chiavenna, devono essere considerati da certe comunità come una febbre non da cancellare, ma che serva a guardarsi dentro e a capire se forse per i visti appunto queste azioni, questi fatti legati alla propria meglio gioventù, non sia il caso di provare a raddrizzare quella barra famosa di cui parlavi tu. Sentiamo il sindaco, ha sentito diciamo l'intervento di Giacomo Amadori, che ne pensa? Io non condivido tutto quello che ha detto, per carità. Però io credo che marcare Verona e la provincia o il Veneto di questo... No, non è un marchio, non, per carità. Cioè, non no, è, perché, è, perché è, più allora, sotti, è più sottile l'intervento che ha fatto Amadori. Quello che è successo a Ligure, quello che è successo a Cogne, quello che è successo dappertutto, allora marchiamo l'Italia, allora... Insomma, lei lo respinge. Io credo invece che la nostra comunità, a parte quella, non è sicuramente... quella che non vuole accettare, io dico che è troppo presto, quello sostengo, poi fra 10 anni ne parleremo insomma. Io vorrei tornare da Paola Caio. Signora Caio, lei martedì, lei con immagino altre, una rappresentanza dell'associazione, andrete dal ministro Alfano, dunque sì. Martedì prossimo verrete ricevute, ci dica che cosa, uno, due, tre punti che chiederà in concreto come Associazione Italiana Vittime della Violenza. Allora, noi chiederemo che venga applicata la legge e che la pena venga scontata fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo, e poi che venga riveduta la legge che è stata fatta alla Gozzini-Simeoni, quella deve essere riveduta e corretta. E porterò al ministro Alfano una 50ina di lettere scritte da ragazze che in questi giorni mi hanno tartassata il computer di lettere che sono allucinanti, a dir poco allucinanti, violenze che stanno subendo. Io le porterò al ministro Alfano, gliele mostrerò, gli farò vedere cosa sta succedendo in Italia e che si prendono seri provvedimenti, perché non se ne può più. Però signora, lei non crede che così, diciamo esacerbando insomma questo discorso, che però io voglio dire con massimo rispetto, come vede l'ho invitata, possa passare quel messaggio di dire che insomma basta compiere un delitto e si è liberi? Non è proprio così, fortunatamente, in Italia. Non funziona così, non si può ammazzare le persone e si è liberi dopo. No, assolutamente, perché questi criminali hanno tutti i vantaggi, hanno tutti i diritti, e noi mamme quale diritto abbiamo? Abbiamo il diritto di andare al cimitero e di piangere sulla tomba delle nostre figlie. Quale indulto abbiamo noi mamme del nostro dolore? Quale ricorso possiamo fare al nostro dolore? Noi non abbiamo nessun diritto, abbiamo solo il dovere di continuare a piangere queste figlie, e noi non vogliamo che succeda mai più cose di questo genere, orrori di questo genere, vogliamo mettere un freno a questa ondata di violenza, ha capito? Quindi adesso noi ci daremo da fare e guardi, siamo incattivite. Siamo veramente esasperate, perché la violenza non è solamente a Verona, come si stava spiegando prima. Succedono fatti di violenza, vengono uccise 2-3 ragazze al giorno in tutta Italia. Non è un unico caso, capisce? Io, signora, mi devo fermare qui per oggi. Le faccio ovviamente tanti auguri, banalmente, per l'incontro e per la battaglia che portate avanti con il ministro Alfano. La seguiremo per quanto possiamo nelle nostre trasmissioni su Radio 24, nella sua e nella vostra battaglia. Grazie davvero a tutti. Potete riascoltare come sempre la trasmissione sul sito radio24.it. E ricordo Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè oggi in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo lunedì mattina.